giovedì 13 dicembre del 2012, 87.900 la modulazione di frequenza, Visionari l'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15 sulle frequenze di Onda Rossa. Allora, gli ospiti sono tanti, cominceremo a collegarci con gli autori di film in uscita nelle sale quest'oggi. Tutte le informazioni rispetto alla scaletta di quest'oggi le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari. Allora, troviamo di nuovo Giulio Manfredonia in quest'oggi come regista di Tutto Tutto Niente Niente, in uscita oggi nelle sale. Giulio, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Ci eravamo sentiti un po' di tempo fa, credo, per un altro tuo film, però non ricordo adesso bene. Mi pare che ci siamo sentiti anche su Per Qualunque Mente. Esatto, esatto. Sicuramente Per Si Può Fare. Esatto, si può fare, me lo ricordo bene. Però adesso mi ricordo anche Qualunque Mente. E allora, visto che si parla di Cettola Qualunque, sì. In questo tuo film protagonista è di nuovo albanese, Antonio Albanese, e un articolo in tre personaggi, a partire da Cettola Qualunque, ma se ne aggiungono altri due. Allora, raccontaci, soprattutto per chi ci ascolta, della nuova storia. Sì, in realtà volevamo fare un film che fosse, diciamo, partendo da Qualunque Mente, una cosa nuova, anche una cosa diversa. Quindi Antonio ha avuto questa idea di moltiplicarsi per tre, e quindi vicino al Cetto, che tutti conoscete, ci sono due personaggi, uno ha una vecchia gloria di Antonio, Flengo e Stop, che molti ricorderanno, è stata una gloria di Mai Dire Gol, e che non vediamo da 15 anni, che è molto cambiato, adesso ha intrapreso un percorso mistico edonistico, diciamo così, per cui a fianco, diciamo, alle sue attività stupefacenti, che chi è un po' più grande di età come me ricorderà anche a Mai Dire Gol, così ha una sua religione del divertimento, dell'allegria, e quindi... Molto giovane, tra l'altro, nel senso, nonostante la sua età, è attorniato da giovanissimi. Beh sì, è uno che piace molto ai ragazzi, è sempre piaciuto molto, infatti anche nelle primarie che abbiamo fatto tra i tre personaggi è quello che è più piaciuto ai ragazzi. E poi, diciamo, a fianco a questi due personaggi che già conosciamo c'è una new entry assoluta, che è un uomo del nord che si chiama Rodolfo Favaretto, e che è un piccolo industriale del nord che, diciamo, è andato in crisi, si è riciclato come scafista, porta in Italia gli extracomunitari e sogna di diventare austriaco e di portare il suo paesino Bracchetto in Austria. Quindi sono tre personaggi abbastanza matti, abbastanza stravaganti, che condividono un percorso che è un percorso abbastanza comune in Italia, cioè passano direttamente dal carcere al Parlamento. Non solo, perché insomma l'idea di un Parlamento variopinto, che insomma è sotto gli occhi di tutti, sembra insomma sintetizzato in questi tre personaggi. Sì, ecco, noi abbiamo immaginato un Parlamento a misura di questi tre personaggi, che poi, diciamo, sono ispirati alla realtà, ma poi vanno nel gioco, nella fantasia, così come ci piace fare a noi, quindi è un gioco, è un paradosso questo film, e anche nel film c'è un Parlamento molto strano che sembra un po' la Curva Sud. Senti Giulio, come mai però in fase di sceneggiatura l'idea di mettere insieme questi tre personaggi rispetto alla vasta gamma, insomma, anche di potenzialità? Ma guarda, Antonio ama molto rinnovarsi, gli piace fare cose sempre nuove, e così ha identificato questi tre personaggi un po' a raccontare tre vizi del nostro paese, no? Uno esplora il mondo della religione, quindi si trova poi a avere a che fare col Vaticano, col misticismo, questo strano misticismo un po' edonista che c'è oggi. E Olfo racconta un po' il nord, no? Il nord-est, che è una parte del paese pochissimo raccontata, che, diciamo, dietro delle intemperanze anche un po' inquietanti c'è anche una profonda disperazione, quindi diciamo lui si è divertito a raccontare queste tre realtà del paese, che sono poi fanno un po' parte dei nostri vizi, dei nostri eterni vizi. Diciamo, Antonio ha detto ieri che questo film è un grande atto d'amore verso l'Italia, però come tutti gli amori seri è un amore critico, e quindi raccontiamo anche i difetti, insomma. Tra l'altro, ecco, rispetto al nord-est c'è tutta una componente militarista che rimanda subito l'esempio eclatante del campanile di San Marco a Venezia, insomma. E sì, c'è dire che negli ultimi anni ce ne sono stati anche tanti altri. Ce ne sono stati, esatto. Un fermento nel nord-est, ma anche insomma nel nord, un'inquietudine che non trova sbocco e quindi porta poi a questi fenomeni estremi che noi vogliamo anche un po' prendere in giro, però insomma probabilmente dietro questa cosa anche un po' esagerata, un po' grottesche, c'è un'inquietudine, un malessere che in qualche maniera non ha avuto risposta in questi anni. Senti, in tutto in un quadro estetico molto pop e kitsch, vero? Sì, noi ci siamo molto divertiti nell'immaginare un mondo fumettistico e quindi liberati dal realismo. Del resto i personaggi di Antonio sono così, anche a teatro Antonio viaggia in mondi immaginari, molto così, direi proprio quel fumetto alla sua dimensione, quindi ci ha dato questa grande possibilità, noi ci siamo molto divertiti a costruire queste realtà parallele, insomma è anche un bel gioco di cinema, quando vediamo nei film stranieri delle invenzioni visive così ci piacciono, di solito a me mi divertono molto. Abbiamo provato a farlo anche noi, diciamo che è una specie di film sui supereroi nel mondo della politica italiana. E tra l'altro una cosa, un punto che avete toccato è quello di tutta la cerchia che ruota intorno ai personaggi e che fanno sì che insomma si mostrino come comunque espressione di un paese, o almeno di componenti anche importanti, quasi maggioritarie del paese rispetto al a una bruttezza e a una corruzione di fondo, così insomma l'immagine è questa più o meno. Ma sai, Antonio dice giustamente, questo è un paese in cui ogni giorno sentiamo dei racconti che si sembrano i limiti della fantascienza, no? Allora è una specie di sogno, un po' un incubo allegro in cui però succedono cose strane che non ti aspetti, sorprendenti, che ti sbigottiscono, no? Sì. Abbiamo giocato un po' su queste esagerazioni della realtà, esagerandoli ulteriormente, insomma secondo me è venuto fuori un film curioso, particolare, molto divertente. Poi sai, la risata è un veicolo sempre molto importante, per cui noi ci piace farlo così, insomma c'è chi ha scritto che non è il tempo dell'ironia, io la penso esattamente all'opposto, insomma. Senti, a proposito invece dei personaggi politici, Cettola Qualunque chiaramente è l'animale più politico principale rispetto anche agli altri due, però nella cronaca quotidiana sembra comunque continuamente scavalcato. Ma sì, come dice Antonio, Cetto è diventato un moderato. Quando ha cominciato a fare Cetto, che aveva appunto queste strane attività sessuali o parasessuali legate alla politica, tutti dicevano, ma figurati se in politica uno si può mischiare col sesso in questa maniera. Poi insomma, oggi è un cellino, ecco. Senti, e che quadro viene fuori anche con la risata rispetto al paese per come lo stiamo vivendo? Ma credo viene fuori questo paese in cui ci se ne possono aspettare di ogni, insomma in qualche maniera viene voglia di un po' di serietà, un po' di così, di guardare anche quello che succede veramente nel paese, perché dietro a questo gruppo di persone che così insomma sono un po' miracolate come i nostri tre che stanno lì a spassarsela, c'è un paese invece che è stato abbastanza inguaiato, per cui credo che venga fuori un quadro di un paese che ha bisogno di cambiamento. Ecco, però torno a ripetere rispetto alle cose che dicevo all'inizio, tutto quello che si muove intorno a questi tre personaggi fa pensare comunque al fatto che ci siano comunque responsabilità più diffuse rispetto ai fenomeni politici che emergono. Ma probabilmente, sai, il tentativo che noi facciamo è quello di fare un film che parla un po' di noi, dei costumi, sì, delle abitudini di questo popolo che poi produce questi personaggi, quindi non so, noi nel finale del film c'è Cetto che dice torneremo, e questa sembrava proprio come dire una profezia, ma da qualche giorno insomma sembra meno lontana, ecco. È vero, tra l'altro più tardi sentiremo Fasanella, che è co-regista del documentario SB, io lo conoscevo bene, poi glielo spiegherò anche lui l'avevo visto, lo avrebbero presentato, lo hanno presentato al Festival del Cinema di Roma. Io all'inizio ho detto no, vabbè, non parliamo pure di questo documentario, però poi la cronaca mi ha sì, imposto di parlarne, perché non è possibile. In realtà, appunto, le sorprese non mancano anche sui giornali, insomma, sì. Ogni giorno se ne legge una è così. E in questo ho trovato nei personaggi di Antonio molte analogie rispetto a dichiarazioni completamente contraddittorie e poi mirabolanti, insomma, tutto un armamentario dialettico che insomma è sotto gli occhi di tutti, mi pare. Sai, Antonio c'ha questa cosa che secondo me con la sua comicità riesce a fotografare delle situazioni con una battuta. Questa è una caratteristica della comicità e secondo me quando funziona è molto forte, perché è molto più forte di tanti ragionamenti. Poi in realtà tu te lo trovi sbattuto in faccia con una battuta ed è forte, è un bel linguaggio, io mi diverto molto. Sì. Senti Giulio, da oggi nelle sale quante copie per... Tante, siamo sul filo spinato, sono 700 copie in tutta Italia. E quindi un'uscita imponente, insomma. Senti, il titolo? Sì. Tutto tutto niente niente? Ma è un po' lo specchio di quello che è il nostro paese adesso, che è un po' tutto tutto e niente niente, insomma. Anche un po' prendendola leggera, perché in fondo anche noi facciamo un po' tutto tutto e niente niente. Bene Giulio, allora su queste parole ci salutiamo, un abbraccio e a risentirci alla prossima. Alla prossima, grazie tante, un saluto a tutti gli amici di Onda Rossa. Ciao ciao. Ciao, grazie. Giulio Manfredonia, regista di Tutto Tutto Niente Niente, in uscita oggi nelle sale. Bene, allora vi ricordo anche il nostro contatto, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, e siamo in collegamento con il nostro secondo ospite Tony D'Angelo, regista dell'Innocenza di Clara, in uscita in sala oggi 13 dicembre. Tony, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao a tutti, buongiorno. Come va? Bene, grazie. Voi? Tutto bene, tutto bene. Senti, è passato un po' di tempo dal tuo film precedente? Sì. Da una notte, sì, in mezzo ci ho messo un documentario Poeti e adesso, insomma, siamo arrivati a questo, ecco. Senti, allora, dacci, per chi è all'ascolto chiaramente e vuole venirlo a vedere, qualche indicazione di trama, così, per sommi capi. Sì, il film è ispirato a un fatto di cronaca realmente avvenuto, in cui una donna... ha spinto il proprio marito ad uccidere il proprio amante, ad uccidere il marito in un finto incidente di caccia, e insomma da lì poi io ho scritto un film che è liberamente ispirato a questo fatto e che insomma in qualche modo racconta le atmosfere noir che circondano questi personaggi, insomma racconta un po' la malattia della provincia italiana. Tra l'altro questi ultimi tempi ci sono altri film che hanno trattato dell'entroterra toscano, dell'ambiente proprio di caccia, insomma curioso questo interesse che si sta sviluppando su questi territori. Tony, dicevi di un episodio di cronaca, cosa ti interessava tirar fuori da questo episodio in grado anche di generalizzare un tema? Sì. Beh, mi interessava fondamentalmente analizzare poi un fatto di cronaca non deve essere per forza sempre, come dire, con dei protagonisti dei mostri, no? Sì, sì. Insomma, sì, sì. Io ho raccontato questo film appunto per raccontare il lato umano di questi personaggi, cioè di come poi un omicidio può succedere anche e semplicemente quasi per in modo quasi casuale, insomma, no? Sì. Anche per, come dire, per una serie di crisi psicologiche che possono portare anche a premere il grilletto in modo involontario, ecco. Rispetto alla provincia di cui ti sei occupato, gli elementi principali che sembrano caratterizzare l'ambiente da te descritto è quello dell'isolamento e della solitudine. Assolutamente, sì. Sì, è un luogo molto maschilista, quello delle cave di marmo, è un luogo dove la donna quasi, come dire, non è prevista, anzi in realtà non è prevista veramente. E per cui questa donna si ritrova nella solitudine più totale, e una solitudine appunto della provincia italiana, e insomma questo poi la spinge a cercare altre emozioni, che questo non significa che poi lei debba essere, come dire, colpevole, consapevole. Senti, in fase di sceneggiatura come ti sei mosso, come hai lavorato per mettere insieme tutti i tasselli di un paesaggio, di un ambiente nel quale si muovono i tuoi personaggi? Ma abbiamo lavorato molto innanzitutto sulla ricerca appunto dei luoghi adatti per questa storia. E appunto, come dicevo prima, quando abbiamo scoperto questo mondo delle cave di marmo, che al di là della bellezza, insomma, noi avevamo bisogno di un posto estremamente maschilista in modo involontario, nel senso un luogo dove la donna fosse proprio, l'arrivo di una donna potesse scatenare i sensi di tutti. E una volta trovato il luogo abbiamo lavorato, insomma, molto, abbiamo letto molto, abbiamo lavorato molto leggendo dei romanzi e dei saggi. Poi siamo arrivati alla lettura di Max Aub, I delitti esemplari, e lì è stata un po' un'illuminazione. E insomma, questi sono dei pensieri di come dire, le persone che ogni giorno, ognuno di noi si sveglia con il desiderio di uccidere qualcuno, che sono dei desideri inconsci e anche, come dire, stupidi, no? Sì. Cioè, io ammazzerei una persona perché la mattina ho trovato la ruota bucata, eccetera eccetera, e da lì siamo arrivati poi appunto a raccontare come poi il desiderio di questa donna, che era un desiderio che lei non ha espresso ma che in qualche modo era inconscio, poi viene realizzato dal suo amante. Il titolo, Tony, L'innocenza di Clara, mette subito in chiaro qual è la prospettiva comunque. Sì, beh, la prospettiva non è tanto l'innocenza giudiziaria, sì, è proprio, sì, l'innocenza, certo, come persona, cioè lei tutto quello che fa non lo fa con cattiveria, lei provoca tutto questo semplicemente perché è una donna che ha bisogno di amore, che è alla ricerca dell'amore continuamente, per cui quando il marito non riesce più a darglielo in un momento, lei va alla ricerca dell'amicizia, del migliore amico, insomma, di suo marito, per cui lei inconsapevolmente innesca questo meccanismo malato che poi porterà a un finale tragico. Ecco, innocente in questo senso. Sì, sì, sì, sì. Rispetto al panorama del cinema italiano, la cosa che mi ha sorpreso è l'aver scelto un campo, il campo del thriller sentimentale, che è piuttosto raro nel nostro cinema, oltre al fatto che comunque ti occupi di provincia, che ultimamente invece sta trovando più attenzione. Però l'ambito thriller sentimentale mi risulta piuttosto anomalo. Ma sì, diciamo che poi è stata una scelta, come dire, mi sono quasi imposto di fare un film così, nel senso, come so per certo che il prossimo film sarà un melò, come dire, è una scelta che mi sono preposto prima di scrivere il film, no? Ho deciso, adesso voglio affrontare il noir, sì, sì, sì. Il prossimo film vorrò affrontare il melò, a me piace molto affrontare i generi e farli miei, ovviamente, come dire, sradicandoli dai loro codici prestabiliti e cercare di entrarci dentro in modo personale. Anche in termini di atmosfera si sente molto. Ovviamente, sì, questo è un film d'atmosfera, volutamente d'atmosfera. La cosa che questo film mi interessava di più era raccontare appunto come questa atmosfera malata potesse essere la prima protagonista, no, di una storia nera. Tony, ti faccio allora i miei complimenti. Da oggi nelle sale, in quante copie? Sei copie. Con Istituto Luce, usciamo a Roma al Quattro Fontane, Napoli Modernissimo, poi usciamo a Torino, Milano, Cagliari e Bologna. Va bene, allora ci sentiamo magari per le prossime novità e nel frattempo un in bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie per l'attenzione. Ciao Tony, a presto. Ciao. Bene, Tony D'Angelo, regista dell'Innocenza di Clara, in uscita oggi nelle sale. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Proseguiamo con gli ospiti. Allora, siamo in collegamento con Daniele Silipo di Distribuzione Indipendente, perché abbiamo provato prima a chiamare Giovanni Fasanella, ma è caduta la linea e ora non è più raggiungibile, con Daniele per parlare del listino 2013, scusate, che è stato presentato, se non sbaglio, martedì, e poi per il progetto G-Movie. Intanto, Daniele, ben ritrovato. Salve a tutti, grazie per avermi invitato. Allora, intanto parliamo del progetto Distribuzione Indipendente. Sì, Distribuzione Indipendente è una casa di distribuzione molto particolare, è attiva da poco più di un anno. La particolarità sta nel fatto che non distribuisce nelle sale tradizionali, nei classici multisala o nelle monosala classiche, ma ha creato già dall'anno scorso un piccolo circuito off, composto per lo più da cineclub, circoli del cinema, associazioni culturali. Questo perché il nostro intento è quello di distribuire opere che normalmente non avrebbero visibilità nel grande circuito, e comunque ci si trova di fronte ad un grande circuito che è già chiuso, perché diciamo i posti nelle sale sono già prese dai soliti film. Sì. Quindi la nostra idea era proprio quella di creare nuovi spazi. Daniele, a quanti schermi siete arrivati? Beh, noi l'anno scorso con il film Chiote abbiamo raggiunto addirittura i 100 schermi. Noi abbiamo delle sale fisse che proiettano tutti i nostri film. Poi in realtà funziona tutto in maniera molto meritocratica, perché se il film piace avviene il passaparola e le sale crescono in maniera esponenziale fino a raggiungere appunto cifre di centinaia di schermi. Sì, mentre ovviamente se il film piace un po' meno ha un po' più di difficoltà. Questo nell'ottica di una meritocrazia che nel cinema non sempre c'è stata. Oh, avete adesso presentato il listino per il nuovo anno. Ad oggi quanti film avete programmato? Allora, di questo secondo listino i film sono 6. Abbiamo fatto una selezione più ricercata rispetto all'anno scorso, che erano 30 opere, ma c'era anche molto materiale da recuperare. Sì, essendo il primo anno, insomma, abbiamo preso anche roba che era rimasta nei cassetti degli anni precedenti. Quest'anno sono 6 opere, con a differenza dell'anno scorso anche due film stranieri. Sì. I titoli sono The Ghost Maker di Mauro Borrelli, che è il concept artist di Tim Burton e Francis Ford Coppola, però questi nomi non devono ingannare, perché in realtà ha fatto questo film da regista, che è un film molto piccolo, indipendente, ed è un horror. E poi avremo Vietato Morire, con un documentario sulla tossicodipendenza molto interessante, a come fanno addirittura Paul Morrissey. Sì, noi abbiamo avuto ospite l'autore in trasmissione, sì, molto, molto bello. Viva Zappatore, che è una commedia grottesca, un po' strano su questo metallaro che un giorno si sveglia con le stigma, quindi vi lascio immaginare poi il tono generale della cosa. E il secondo film straniero è Bomber, un film inglese, una commedia drammatica. E poi chiuderemo con un recupero, che è Beckett di Davide Manulli, che è uscito in poche sale qualche come anno no, fa come e adesso no, lo certo. stiamo dando nuova visibilità, anche perché c'è uscito il suo nuovo film e quindi ci piaceva fare un po' l'anno di Manulli, visto che è uno dei nostri talenti che fatica ad uscire fuori dalla nicchia. Sì. Per chiudere, proprio l'ultimo film sarà Po, che è una raccolta sostanzialmente di episodi, di cortometraggi, dove ci sta il meglio della nuova leva dell'horror italiano indipendente. Senti, quali sono stati i criteri della scelta di questi 6 titoli? Beh, noi il criterio è sempre quello di non somigliare al cinema che si può trovare in un multisala, proprio perché il nostro intento è appunto creare nuovi spazi non per mettere le stesse cose che si possono trovare altrove, ma per far vedere quello che non trova appunto spazio. Sì. E in tal senso cerchiamo di prendere tutte quelle opere che hanno una particolarità che diciamo li rende interessanti. Può essere appunto, come nel caso di Vietato Morire, un docu-fiction che adotta poi soluzioni di regia molto interessanti, può essere guardare per esempio ad Hollywood delle produzioni più piccole come The Ghost Maker, può essere dare spazio a delle commedie che distruggono completamente quello che è il senso della commedia all'italiana come di Zappatore, quindi tutto ciò che rappresenta una visione altra. Senti, parliamo anche del progetto G-Movie? Sì, G-Movie è un nuovo progetto legato all'home video. La particolarità, anche in questo caso, abbiamo cercato di creare un qualcosa di diverso, sempre nell'ottica di creare nuovi spazi, la particolarità di questa edizione home video è che non si compra, perché è un'edizione home video gratuita. Sostanzialmente unisce il concetto di free press a quello di edizione home video. Quindi saranno dei DVD contenenti l'intero film, in questo caso The Ghost Maker, che si autosostentano ospitando inserzioni pubblicitarie. Queste saranno poi distribuite come una qualsiasi free press in locali pubblici, librerie, gallerie d'arte e su Roma anche in allegato con le consegne a domicilio della pizza, con il pizza. Questa è stata una scelta che abbiamo voluto sia perché le copie saranno 20.000, che non sono per niente poche se consideriamo altre edizioni. Questa è una scelta che abbiamo voluto anche nell'ottica della crisi, insomma, c'è la crisi adesso, la cultura viene relegata al rango più basso delle priorità. A noi piaceva invece l'idea di metterci a regalare cultura, però non come forma di volontariato, che sarebbe comunque una cosa nobile, ma proprio cercando di crearci anche un business intorno. E l'altra, diciamo, cosa che ci interessava era contrastare la pirateria con le stesse armi, quindi gratis contro gratis. Da una parte ti porti a casa un file tutto spixellato, dall'altra parte ti porti a casa un'edizione video, anche ricercata a livello di packaging, perché ci siamo molto concentrati anche su questo aspetto. Daniele, per saperne di più su distribuzione indipendente, ci lasci dei riferimenti internet? Sì, c'è il nostro sito www.distribuzioneindipendente.it, comunque basta cercare distribuzione indipendente su Google, è il primo sito che compare. Lì ci stanno tutte le sale, diciamo, affiliate, che non sono le uniche, ma sono le principali, quelle che proiettano con maggior frequenza, e poi il catalogo film. Daniele, un abbraccio e a risentirci per le prossime novità. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, riproviamo con i collegamenti che sono saltati a questo punto. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@andarossa.info. Allora, abbiamo recuperato con Giovanni Fasanella, eccoci di nuovo qui. Allora, ti stavo raccontando che prima, inizio trasmissione, avevamo sentito Giulio Manfredonia e gli ho raccontato che quando avevo sentito della presentazione del vostro documentario SB, io lo conoscevo bene, al Festival di Roma, ho detto no, basta, non ne voglio più parlare. Sì. E invece poi sembra che la nuova discesa in campo ci stia riportando alla cronaca e quindi all'attualità, e quindi ho detto, beh, bisogna parlarne per forza. vuol dire che c'è un problema, che questo problema ha radici profonde, sì. E quindi far finta che non esista credo che non aiuti a risolverlo. Berlusconi, il berlusconismo sono un'anomalia evidente e l'Europa ha reagito alla notizia della sua ridiscesa in campo, come sappiamo, e quindi non è un problema soltanto italiano, ormai è un problema che ha assunto una dimensione internazionale. Giovanni, quali sono stati i presupposti? Con quale approccio avete affrontato la questione? Ma guarda, il nostro appunto ci siamo domandati come raccontare Berlusconi da un punto di vista che non fosse scontato, perché il Berlusconi che conosciamo attraverso le cronache giudiziarie è a tutti noto, il Berlusconi che conosciamo attraverso il racconto dei suoi avversari politici è a tutti noto. E quello che non sapevamo ancora era il rapporto tra Berlusconi e i suoi amici, e quindi l'idea che abbiamo avuto è di far raccontare la storia di Berlusconi, la sua ascesa prima come imprenditore e poi come leader politico, proprio dai suoi sostenitori, cioè quelli che lo hanno aiutato, lo avevano aiutato a scalare le vette del potere. E, però questo è la cosa più interessante, se posso permettermi di dirlo, del documentario, è che non è, come uno potrebbe pensare di primo acchito, un ritratto edificante. Il racconto. Prego. Messa così potrebbe sembrare che ne viene fuori un ritratto edificante, quantomeno. Esattamente, stavo dicendo proprio questo, cioè quindi non è un racconto, cioè, di persone che dicono oh quanto è bello Silvio Berlusconi, invece sono testimonianze che lo demoliscono, distruggono da tutti i punti di vista, perché sono testimonianze di persone che avevano creduto in lui, che avevano creduto nel suo progetto politico, che avevano creduto nelle sue promesse, e poi sono rimasti tutti delusi e frustrati dal modo in cui Berlusconi, una volta conquistato il potere, lo ha gestito. Mm-hmm. Il potere all'interno del partito e naturalmente quello di governo. C'è una frase illuminante di Paolo Guzzanti, che è uno dei testimoni del film, ma che esprime un po' il punto di vista di tutti quanti gli altri, che è illuminante, e dice: di tutto quello che aveva promesso nulla si è visto. Mm-hmm. Quante persone avete avuto come testimoni? Ma sono tante, credo almeno una quindicina, insomma. Mm-hmm. Sono politici, giornalisti, anche uomini di apparati, insomma tutto quell'universo, ma anche gente per bene che aveva creduto che Silvio Berlusconi in quella fase molto delicata della storia italiana, che era il passaggio tra la prima e la seconda repubblica, è tutta gente per bene che aveva creduto che Silvio Berlusconi rappresentasse allora una novità. Naturalmente si tratta di anticomunisti democratici che si affidarono a lui per impedire che l'Italia fosse governata, perché dal loro punto di vista questo rischio c'era allora, dai post-comunisti che avevano cambiato nome e simbolo e che stavano stravincendo le elezioni, tutte le elezioni che si tenevano in quel periodo, e quindi avevano anche dalla loro i sondaggi per le elezioni politiche. E quindi ci fu una parte del paese moderata, anticomunista, che pur di affidare l'Italia alla sinistra preferì scegliere Silvio Berlusconi. Mm-hmm. E purtroppo è andata come andata per loro, naturalmente, ma anche per il paese. Questa parte dell'opinione pubblica moderata ha dovuto prendere atto che il personaggio su cui avevano investito si è rivelato un grande fallimento. Giovanni, rispetto al quadro d'insieme, prima hai fatto l'esempio Guzzanti, rispetto alle promesse mancate, ecco, quali sono le critiche principali che emergono? Beh, sono tantissime. Beh, c'è Giuliano Ferrara, il quale dice: potrei fare un elenco di un milione di cose che Silvio Berlusconi non ha fatto, dalla riforma delle pensioni alla riforma della, a una riforma della giustizia che valesse per tutti e non soltanto per lui, per dire. Oppure la promessa mancata di una rivoluzione liberale. Aveva detto, aveva promesso alla sua gente, illudendola, che avrebbe rivoltato l'Italia come un calzino, e non l'ha fatto. E poi il modo in cui ha gestito il partito, con una concezione padronale di Forza Italia prima e del PDL, poi il modo in cui ha gestito, selezionato la classe dirigente del centrodestra sulla base di criteri di affidabilità politica e non meritocratica, addirittura in qualche caso, in molti casi, sulla base di criteri amicali, se non di peggio, come si è visto poi, insomma, con tante signorine promosse anche nella politica, portate in Parlamento, nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo, grazie a meriti di cui ovviamente fermiamoci qui, sì, perché è una storia nota, fin troppo nota. All'opinione pubblica e innanzitutto a gran parte della stessa opinione pubblica del centrodestra. Senti Giovanni, il bilancio finale di questo quadro che avete dato, anche in vista di una prospettiva futura, vi siete posti anche questa questione? Il bilancio finale lo traccia con una frase veramente anche questa illuminante, Paolo Cirino Pomicino, quindi pensate, c'è uno delle icone della tanto bistrattata Prima Repubblica, che di fronte al fenomeno berlusconiano, alla degenerazione del fenomeno berlusconiano, dice, preso dalla disperazione, Berlusconi dopo quasi 20 anni di protagonismo sulla scena politica lascia un paese ridotto in macerie. Ecco, l'Italia che ci lascia Berlusconi è un paese che è come se fosse appena uscito da una disastrosa guerra e quindi da ricostruire completamente da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista della cultura, delle regole, dal punto di vista del costume pubblico e per certi aspetti, anche se posso permettermi, anche dal punto di vista del costume privato. Giovanni, tutto questo comunque è stato possibile anche per la mancanza di un campo avverso in qualche modo di un'alternativa credibile. E naturalmente Berlusconi, e questo anche che si racconta nel film, le testimonianze poi rispondono a una domanda che nessuno si è mai posto in questo paese, cioè com'è possibile che l'Italia abbia prodotto un fenomeno come Silvio Berlusconi. Qui naturalmente, oltre adesso a fare l'elenco delle manchevolezze, per usare una parola gentile, di Silvio Berlusconi e del centrodestra, forse anche il centrosinistra dovrebbe fare qualche esame autocritico. Nel 1992-93 la sinistra ex comunista si illuse che cambiando semplicemente nome e simbolo quella parte moderata del paese che rappresenta la maggioranza, almeno allora rappresentava la maggioranza, e di questo bisogna prendere atto, avesse dimenticato la storia del comunismo e si fosse scordata degli orrori del comunismo dei paesi dell'est, che proprio tra l'altro proprio in quel periodo crollava miseramente e tragicamente. Ecco, il fatto che la sinistra comunista non abbia fatto fino in fondo i conti con la propria storia, ecco, ha contribuito a dar corpo nuovamente ai fantasmi, alle paure di quella parte dell'opinione pubblica che aveva già negli anni precedenti, durante la Guerra Fredda, aveva temuto il comunismo e lo aveva anche combattuto, spesso lo aveva combattuto anche con metodi non ortodossi. Giovanni, per saperne di più sul vostro lavoro in rete c'è un sito di riferimento? No, non ancora. Adesso il film è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, adesso sarà in concorso anche in altri festival del cinema internazionali, per ora non voglio dire ancora quali perché non c'è la conferma ufficiale, anche se siamo stati già invitati. Quello che posso dire è che tra gennaio e febbraio dovrebbe uscire nelle sale italiane. Va bene, allora a risentirci presto. Benone, grazie tante. Ciao Giovanni, ciao. Grazie. Giovanni Fasanella, co-regista del documentario SB, io lo conoscevo bene. E ritroviamo Marcello Sannino. Ciao, buongiorno. Per il documentario, questa volta La Seconda Natura, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Intanto come stai, Marcello? Va bene, abbastanza bene, infreddolito, oggi fa veramente freddo, ma questo penso l'abbiamo sentito tutti, va bene. Allora, La Seconda Natura, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un ritratto filmico, se vogliamo, su Gerardo Marotta, che è il presidente dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici e diciamo uomo che durante tutta la sua vita, anche prima appunto di essere presidente dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici, diciamo, ha dedicato il suo lavoro, il suo impegno intellettuale, potremmo dire in un ambito molto largo della giustizia sociale, comunque diciamo così, nell'ambito della cultura, però affinché si affermi un'idea di Stato e di istituzione che applichi appunto la giustizia sociale. Se non sbaglio, poi dai forti tratti meridionalisti. Sì, lui diciamo si rifà all'umanesimo meridionale, sì. Però da un lato appunto ha questi tratti, questi riferimenti l'umanesimo meridionale e da un lato però è un convinto europeista e quindi crede nella dimensione molto più universale delle cose. L'umanesimo meridionale ha dei nomi abbastanza forti perché se vogliamo lui fa risalire appunto il genius loci, diciamo così, a Platone che veniva a studiare da Pitagora e poi arriviamo a Paracelso, a Campanella, a Giordano Bruno e poi a Giambattista Vico nel Settecento, Filangieri che fu l'ispiratore anche della Rivoluzione Francese in qualche verso di Napoleone, fino agli Spaventa, quindi gli Hegeliani di Napoli e Benedetto Croce, insomma, quindi sono riferimenti alti e Giordano Bruno, come lui dice anche nel film, è un riferimento appunto universale, non certo meridionale. Pensa che noi facciamo anche il radioteatro e martedì abbiamo fatto in diretta con un'attrice lo spettacolo Candelaio, la commedia di Giordano Bruno. Senti Marcello, la prima cosa che mi viene in mente, vista anche le celebrazioni che ci sono state rispetto all'Unità d'Italia, qual è la sua posizione rispetto all'avventura risorgimentale? Per esempio penso a quella che è stata una vera e propria guerra civile con migliaia e migliaia di morti e incarcerati, insomma il Sud ha pagato un prezzo altissimo in proposito. Allora lui da un lato aborrisce o comunque è contro tutte quelle visioni di un meridionalismo di divisione, ecco, quindi lui è a favore totale del risorgimento, sì. Però è chiaro che appunto, insomma, così come è stato storicamente, il Risorgimento nasce con una è monco, perché non è l'applicazione di una rivoluzione o comunque di un cambiamento che parte veramente dal popolo, ma è il nome di un re, quindi non è il nome della Repubblica, ma il nome del re, e questo fu il grande errore che poi portò appunto anche ai grandi eccidi, perché l'esercito dei Savoia era un esercito, diciamo, straniero in qualche maniera, o comunque di un re straniero. Mm-hmm. E invece se quella di quel Risorgimento, però lui al Risorgimento ci tiene tanto e dice, e storicamente molto forte, veramente, cioè diciamo che la rivoluzione napoletana del 1799 fu una delle prime aperture, o comunque uno dei primi sintomi verso quello che fu poi il Risorgimento, prima la Repubblica Romana con Garibaldi e poi il Risorgimento. Sì, quindi sì. Lui ci tiene molto al Risorgimento, cioè lui, però chiaramente fu sbagliata la manovra di affidarsi al re, diciamo così, o comunque di farlo in nome del re. Marcello, poi rispetto invece alla giustizia sociale che lui si sì. prefigge, qual è un percorso che individua in tal senso? Ma lui individua, diciamo, un percorso molto lungo, nel senso che, questo si vede anche nel film, la giustizia sociale sarebbe potuta avvenire in Italia, per esempio, dopo il 48, con l'avvento della Costituzione, la scrittura della Costituzione, però lui dice, e forse è così, mi sembra proprio di sì, che la Costituzione non è mai stata realmente applicata. Mm-hmm. Quindi quella giustizia sociale di cui lui parla dovrebbe uscire da uno Stato che non abbiamo mai conosciuto, perché appunto, come lui dice nel film, come diceva Calamandrei, si ristabilì lo Stato borghese, lo Stato giolittiano, quello pre-fascismo addirittura, in realtà. E quindi, ed è stato così, cioè nel senso, noi non abbiamo una vera idea di Stato in Italia, e c'è mancanza di Stato dappertutto, chiaramente in particolare al sud, ma dappertutto, perché non è mai stata applicata veramente la Costituzione, e l'idea di Stato è stata col tempo, diciamo, denigrata da più parti e in più maniere. Quindi la giustizia sociale, secondo lui, si applica con un nuovo Stato che non abbiamo ancora visto. È uno Stato di tipo hegeliano, ma comunque è uno Stato che bastava applicare la Costituzione e i principi della Costituzione e avremmo avuto molta più giustizia sociale. Il titolo che hai dato al documentario, La Seconda Natura? La Seconda Natura, appunto, è anche questo un concetto espresso da Hegel in una maniera ovviamente abbastanza complessa, però in sostanza lui, diciamo, per superare la natura istintiva dell'uomo, che è molto vicina, diciamo, anche a quella dell'animale, la Seconda Natura è una figura, cioè l'uomo, per essere uomo, deve acquistarla la seconda natura. Noi nasciamo come gli animali, ma gli animali, così come nascono, sono quel che sono, insomma, un cavallo è un cavallo dalla nascita, un uomo, un essere umano, per essere tale deve formarsi, no? E quindi sì, deve formarsi una seconda natura. Mm-hmm. Senti, ecco, lo dice anche nel film. E la scelta di fare un documentario su una mente, su questa mente, su questo personaggio? Sì, io ho avuto modo di incontrarla nel 2004, già 2004-2005, perché stavo finendo un altro documentario che raccontava, diciamo, la chiusura di l'ultima libreria della catena internazionale Treves, vabbè, insomma, una libreria storica di Napoli che aveva più di 100 anni, e l'avvocato si mise a capo di questa protesta per 2 anni. Allora io lo incontrai in quel contesto e andai a casa sua. Avevo già un bel po' di ore di girato, perché l'avvocato, basta fargli una domanda e parla per 2 ore. Insomma, avevo delle immagini e dei racconti molto molto belli, che poi non ho nemmeno montato, tranne in parte. Insomma, quindi già all'epoca nacque l'idea. E poi appunto finì quel film, L'Ultima Treves, insomma, finì corde. Nel frattempo incontravo ogni tanto l'avvocato per qualche cosa che ritenevo fosse importante, quindi ho accumulato materiale, fino a che poi nel 2008-2009 mi sono poi messo, diciamo, dopo aver finito corde, mi sono messo a girare e poi a montare per molto tempo. È stato molto lungo il lavoro, perché potrebbe sembrare facile fare il ritratto di un uomo così, ma è veramente complesso, perché lui ci tiene molto che il suo discorso sia chiaro e che esca fuori chiaro. Ho dovuto fare ricerche di repertorio molto lunghe per trovare appunto le immagini che evocassero quello di cui lui parla, e poi ci sono immagini con lui della Rai, nelle Teche Rai, quindi è stato un lavoro, perché comunque lui è stato, diciamo, molto conosciuto, molto apprezzato e anche molto intervistato negli anni, quindi dagli anni 80 in poi. Senti Marcello, in rete avete un riferimento anche per sapere eventuali prossime proiezioni o comunque distribuzione? Guarda, io spero, visto che insomma, siamo in pochi a lavorare a questo lavoro, spero di fare un sito, e quindi ci sarà un sito, altrimenti per il momento diciamo, le notizie, adesso non ne abbiamo ancora di notizie, di proiezioni, perché abbiamo vinto il premio UCCA a Torino, ma non c'è ancora una programmazione delle proiezioni, e insomma adesso farà un po' più quel giro dei festival tipico di questi lavori, e poi ci saranno le proiezioni, insomma, comunque ci sarà un sito. Bene, allora a risentirci presto. Non posso ancora annunciare. Va bene. Va bene. Ci farai sapere allora, Marcello. Ok. Un abbraccio, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Federico. Ciao. Marcello Sannino, regista del documentario La Seconda Natura. Abbiamo ancora alcuni ospiti. Antonio Morabito, ben ritrovato. Salve, buonasera. Come stai? Bene, bene, un po' raffreddato, ma insomma. Allora, siamo reduci entrambi dalla 30ª edizione del Sulmona Cinema Film Festival. La settimana scorsa avevo avuto ospite il direttore. Dal festival torni con un premio come miglior regia per il tuo documentario Che cos'è un Marrico. Allora Antonio, tanto noi ci eravamo sentiti, come giustamente mi hai ricordato, per Non so l'1%, un lavoro dedicato all'area libertaria. In questo caso invece è una storia totalmente diversa. E Che cos'è un Marrico? Allora ce lo racconti tu adesso. Certo. Che cos'è Marrico? È un documentario che parla del rapporto che c'è tra un ragazzo, insomma, purtroppo distrofico, totalmente distrofico, che vive su una sedia a rotelle, muove veramente una mano e un po' la testa, e il suo operatore sociale, che è Stefano. Secondo me il rapporto è proprio il centro del documentario, ecco. Non è un film sulla disabilità, ma proprio su questo rapporto tra due persone veramente incredibili, secondo me. Ecco, anche perché, come raccontavi al festival durante la premiazione, di questo caso ti aveva parlato proprio l'assistente sociale, che è un tuo amico, e ti aveva parlato più volte di questa persona, e tutto nasce un po' da lì, da questa curiosità. Esatto, Stefano mi aveva parlato, insomma, di Marrico, mi ero sempre più incuriosito. Poi una volta conosciuto Marrico ho trovato una porta spalancata a fare cose di questo tipo. Lui voleva addirittura fare un film, era molto entusiasta, e poi alla fine mi è sembrato la cosa migliore, mi è sembrato appunto riprendere lui, ecco, cercando di essere il più discreto possibile. Quali sono le cose più belle che hai visto in questo rapporto che si è instaurato tra loro due? Il fatto che tutti e due si mettono quotidianamente, costantemente in gioco, e queste cose lo fanno anche nel documentario. Anche Stefano non è mai, insomma, mai superficiale, mai, non si pone mai né dall'alto né dal basso, insomma, rispetto a Marrico. È lo stesso Marrico è stato molto, poi molto, molto coraggioso, perché comunque si è messo a nudo e ha veramente non si è risparmiato, e io credo ci voglia coraggio, insomma, per far questo. Soprattutto queste due cose. È un rapporto dove viene fuori molto la normalità. Ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta è questa, la normalità di una persona, appunto, che non è un cosiddetto normodotato, cioè è un diverso. Però ecco, con Stefano, diciamo, all'interno del loro rapporto, questa cosa sembra assolutamente non venire fuori, ecco, è veramente un rapporto paritario. Ecco, al di là di questo rapporto paritario, parlavi, ecco, di un diverso. E cosa ne è di un diverso in un contesto urbano come il nostro? Il nostro contesto urbano dà per scontato molte cose, quindi molto spesso, purtroppo, i diversi tendono vagamente a soccombere. Quindi, diciamo, Roma, che sicuramente non è la città più inaccessibile del pianeta, comunque si è dimostrata abbastanza inaccessibile, ad esempio, giusto per dirne una, perché vediamo costantemente loro, insomma, Marrico e Stefano immersi in un contesto urbano opprimente, macchine ovunque, scivoli bloccati. Questo è un aspetto, insomma, poi ce ne sono tanti altri. Molto spesso Marrico viveva in un quartiere Prati di Roma, insomma, un quartiere molto, di rappresentanza, anche un quartiere produttivo, no? Dove ci sono molti uffici, nel suo palazzo c'erano molti uffici. E molto spesso bisogna far bella figura con le persone, con i clienti, con dei vari studi notarili, di avvocati, eccetera. Per cui magari l'esigenza proprio primaria di una persona come Marrico, che magari ha esigenze basilari come, che ne so, avere un ascensore più largo, una rampa più accessibile, cioè, vengono posposte rispetto al concetto di eleganza e di bellezza che, insomma, è sempre onnipresente. Senti Antonio, tu ti sei posto come osservatore rispetto a questo rapporto che si è creato tra queste due persone. Qualcuno ti chiedeva durante proprio la premiazione al Sulmona Cinema Film Festival di spiegare un po' anche le scelte di regia che hanno accompagnato il tuo lavoro. Ma diciamo che l'argomento era abbastanza delicato, la situazione è abbastanza delicata, per cui ho cercato più che altro di tenermi a una certa distanza, però di interagire comunque con tutto ciò che accadeva. Quindi più che altro è stata questa, il pormi a una distanza così, che ritenessi accettabile, non essere invadente, però essere presente. Ecco, questa è stata la difficoltà maggiore. Senti Antonio, la reazione dei due al tuo lavoro, al risultato finale? No, sono molto contenti, insomma, sono entusiasti, devo dire. Stefano si è riconosciuto, come appunto ho detto anche al festival, anche come operatore, e anche Marrico è rimasto molto contento. E questa è ovviamente la soddisfazione maggiore. Certo. Dove sarà possibile fruirne? Questa è una bella domanda. Non lo so, sinceramente ancora non lo so, perché, insomma, già la vita è dura per i film in Italia, sì, quindi figurati per, ovviamente, come tu sai bene, per i documentari. Però cercherò di proporlo sicuramente a qualche distribuzione, vediamo. Sì. E in rete si può vedere da qualche parte un livello di informazioni maggiori per chi volesse saperne? Dunque, data la nostra fantastica organizzazione che si muove capillarmente sul territorio, no, ancora no, però stiamo cercando ora di, ora sicuramente faremo qualcosa, un sito. Sì. Bello. Allora ci terrà informati. Senz'altro, senz'altro. Antonio, un abbraccio, è sempre un piacere e ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Antonio Morabito, regista del documentario Che cos'è un Manrico? Premio per la miglior regia al 30° sul Mona Cinema Film Festival. È con noi Gaetano Ippolito, regista del documentario Inside Africa. Ci sei? Sì, salve a tutti. Ciao Gaetano. Buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie. Allora, proveniente dall'Hai visto mai Film Festival, se non sbaglio. Sì, siamo stati a settembre questo festival di Luca Zingaretti dedicato al documentario e siamo stati in concorso con Inside Africa e fortunatamente la giuria ha deciso di premiare la nostra opera come miglior documentario del festival, quindi siamo tutti soddisfatti per questo bellissimo risultato ottenuto. Qual è l'Africa di cui ti sei occupato, Gaetano? Noi siamo stati in Tanzania, dove appunto abbiamo seguito questo medico casertano che opera in questo villaggio dove sta costruendo un ospedale e inoltre opera anche come medico ginecologico. Abbiamo seguito appunto la sua storia partendo dall'Italia fino in Tanzania e quindi abbiamo seguito lui quando andava nei villaggi, quando operava nell'ospedale, quando ha consegnato i soldi al sindaco di questo villaggio che si chiama Pande per la costruzione dell'ospedale. In quali condizioni si trova ad operare? Chiaramente la Tanzania è un problema con una emergenza sanitaria notevole, infatti basti pensare che il 35% della popolazione è malata di AIDS. E inoltre, siccome lì la sanità è privata, quindi la maggior parte della gente non può permettersi la sanità. Infatti lì c'è una mortalità altissima, la vita media è di 48 anni. Infatti quando siamo stati noi abbiamo visto per lo più tutti bambini, si fa fatica a trovare una persona di 60 anni, di 70 anni, proprio dovuto alla mortalità così alta. Anche perché vivono in condizioni igienico-sanitarie molto basse. Come avete deciso di iniziare a seguire questa storia? Noi abbiamo incontrato il medico Valente, che è appunto il presidente di un'associazione che opera per l'Africa, e l'abbiamo incontrato casualmente in una manifestazione di beneficenza in cui lui appunto raccoglieva fondi per questo ospedale da costruire in Pande. E in quell'occasione siamo stati affascinati dal racconto che lui ci faceva dell'Africa, del Mal d'Africa. Sembrava quasi che lui stesse in Italia e vivesse in Italia sempre in attesa per poter ritornare in Africa. E quando siamo stati là appunto abbiamo scoperto il perché lì, nonostante ci sia tutta questa morte, dolore, un popolo che fondamentalmente è una felicità, sempre un popolo sorridente, quindi quando stai là ricevi tantissimo dal punto di vista della gioia, mentre noi magari qui che viviamo in condizioni di un'agiatezza diffusa, però siamo sempre un po' tristi, malinconici, soprattutto in questo periodo di crisi economica. Senti, allora ci hai detto un po' della situazione sanitaria, ecco, rispetto invece ai medici che lavorano lì e anche il rapporto che hanno con la popolazione? Lì i medici italiani sono praticamente adorati perché sono considerati una sorta di, sono quelli che poi ti salvano realmente, perché poiché lì la gente è povera, quindi è difficile che un medico africano, non solo che una persona africana riesca a laurearsi e quindi a diventare medico, ma anche se lo fa, anche se riesce a diventare medico, chiaramente preferisce operare come medico nelle metropoli, dove appunto guadagnano di più e vivono in condizioni che si avvicinano più a quelle nostre, diciamo, mentre è difficile che un medico africano vada in questi piccoli villaggi poveri a fare il lab medico. E quindi alla fine questi ospedali medici italiani sono una sorta di avamposto, diciamo, sanitario, che consentono appunto alla popolazione locale di usufruire di questi servizi sanitari, che altrimenti dovrebbero fare chilometri e chilometri per raggiungere queste metropoli, che lì bisogna sapere che le distanze sono lunghissime perché mancano le strade, le infrastrutture, e quindi spesso per raggiungere una metropoli ci vuole anche 2-3 ore o addirittura un giorno, e quindi spesso capita che chi si imbarca in questi viaggi abbastanza lunghi poi muore per strada. E quindi appunto questi medici, infatti quando siamo stati noi in Tanzania col medico Valente, appena è arrivato lui l'ospedale si è riempito, e fino a che è stato lui in quei 20 giorni c'era sempre gente, c'era sempre la fila per essere appunto soccorso dal dottor Valente. Gaetano, per saperne di più rispetto alla dimensione internet del tuo documentario Inside Africa, dove si può cercare, a parte i motori di ricerca, se avete un sito internet? Sì, noi abbiamo un sito internet che è www.terradicinema.it, e tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo fatto un DVD che appunto si può mandare a richiedere versando un contributo libero per chi volesse avere questo contributo, per chi volesse avere il DVD. Benissimo. Allora, un abbraccio e a risentirci per le prossime cose. Ok, grazie a voi e in bocca al lupo per la trasmissione. Ciao Gaetano, grazie. Ciao, grazie. Gaetano Ippolito, regista del documentario Inside Africa. Dovremmo avere il nostro ultimo collegamento, Dulcis in fundo. È lei o non è lei? Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville. Patrizia Salvatori, eccola qui. Bene, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Federico. Allora, ultimamente ci siamo visti anche diverse volte. Ma io vivo. Infatti vorrei sottolineare, se posso dirlo in radio, che finalmente Federico non è più una voce, ma è diventato, diciamo, più spesso di prima. No, veramente non era una voce nemmeno prima, è un caro amico, è una persona a me molto vicina, perché ad Alfa, per carità, però stavolta ci siamo visti più spesso. Sono molto contenta, Federico, di questo. Anche perché è più piacevole parlare vis-à-vis. Esatto. Allora, esatto. Quest'oggi parliamo con te in veste di direttrice della 9ª edizione del Festival delle Scritture Cinematografiche Pigneto 012, che si sta svolgendo, visto che è cominciata il 12, andrà avanti fino a domenica 16, tra Alphaville Cineclub e altri spazi del quartiere Pigneto. Dici un po', Patrizia. Allora, il Festival delle Scritture Cinematografiche, innanzitutto, appunto, come giustamente sottolineavi tu, Federico, è un festival che giunge alla sua 9ª edizione, è un festival teorico, ma è un festival che non mira soltanto a guardare all'esperienza passata nel rapporto appunto di cinema e scritture. Quando parlo di scrittura intendo un pochino tutto, no? È scrittura per il cinema, non soltanto il saggio, non soltanto il soggetto, non soltanto la sceneggiatura, e quindi non soltanto tutto quel che viene prima o dopo l'immagine in movimento, ma tutto quello che porta a realizzare un'immagine in movimento. Lo dico perché quest'anno il tema del festival, come ogni anno, c'è un tema diverso, è eccezionale, perché appunto è quasi speculare di idee l'un l'altro, è il rapporto tra il cinema e la fotografia. Quindi questo tema verrà affrontato, così come viene affrontato ogni tema del festival da 9 anni a questa parte, attraverso una serie di proposte che possono essere sì proposte anche soprattutto storiche per certi versi, che individuano, incanalano, danno una motivazione, una spiegazione appunto alla storia del cinema attraverso in questo caso la fotografia, ma ci sono invece poi presenze contemporanei, anche giovani, che appunto garantiscono, come dire, questo rapporto dal passato al contemporaneo fino naturalmente al futuro. E infatti i giorni del festival sono appunto, come giustamente ricordavi tu, da ieri e fino a domenica. Ieri abbiamo iniziato con uno spazio vintage veramente notevole, uno dei miei film preferiti, non so se a te piace, ma penso di sì, che è l'infernale Killian di Orson Welles. Sì. Abbiamo dato questo magnifico film, veramente quasi direi barocco per l'utilizzo della corta focale, delle inquadrature, dello splendido piano sequenza iniziale. Insomma, ci siamo tanto divertiti a rivedere, e poi è un poliziesco con un enorme Orson Welles che fa la fa da padrone, sempre preso dal basso in complogie spaventosi, no? Quindi ci siamo molto divertiti, e poi ci stanno le donne, c'è Marlene Dietrich che fa la messicana, insomma veramente ci siamo divertiti. Lo sai, ma mi sa che l'ho visto proprio in un cineclub, l'infernale Killian. Ma penso di sì, anche perché Federico ormai questi film non si vedono più, no? Sì, cioè sì, praticamente sì. Sono scomparsi, non li fanno vedere in televisione, o in non un li festival, fanno vedere, no. O in un festival o in un cineclub, non mi ricordo, però perché è stato diverso tempo fa. E... Certo, ma questo è infatti perché non li fa vedere più nessuno, perché dici no vabbè, ma sono i film del passato, ma stiamo scherzando, ma dovremmo rivederli una volta al mese per renderci conto di come si fa a catturare lo spettatore, secondo me. Comunque allora, infatti noi tutti catturati ieri. Dici un po' ancora del programma. Stasera, sì. Come? Dici ancora infatti del programma. Sì, no, però stasera e poi anche sabato e poi anche domenica, il piatto forte di questo festival è l'incontro con i protagonisti. Ed infatti questa sera appunto è previsto alle 21 l'incontro con un grandissimo direttore della fotografia, che è appunto Franco Di Giacomo, un direttore della fotografia importante nella storia del cinema, perché direttore di fotografia di grandi autori, da Bertolucci a Francesco Rosi, da Francesco Rosi ai fratelli italiani, con i quali peraltro ha vinto proprio il premio come miglior direttore della fotografia. Stasera appunto parleremo con lui di questo lavoro, di questo mestiere importantissimo, perché appunto è legato a doppio filo al mestiere del regista, e l'uno senza l'altro evidentemente non possono esistere, e lui appunto ha scelto, Franco, di far vedere questa sera, dopo l'incontro con lui, La notte di San Lorenzo dei fratelli italiani, quel bellissimo film sulla resistenza del 1982 che ha vinto davvero numerosi premi. Poi mi fa piacere che abbia scelto proprio i fratelli italiani, che come sappiamo tutti insomma stanno vivendo questa terza giovinezza, possiamo dirlo. Eh sì, per loro quest'ultimo film è stato un trionfo planetario. Esatto, bravo, è giusto Federico, proprio così, un trionfo planetario, nel senso che non è stato solo un trionfo in Italia, cioè in tutto il mondo è funzionata ed è rimbalzata finalmente la grande fame, la grande maestria dei fratelli italiani. Sì. Quindi sono stata contenta di questa scelta. Sentiamo cosa ci dice questo direttore della fotografia, che noi abbiamo selezionato, anzi che più precisamente ho selezionato proprio io, perché appunto direttore della fotografia di grandi autori. Invece gli altri due direttori della fotografia che vengono rispettivamente sabato, ci sarà Alessandro Pesci, e domenica ci sarà Sergio Salvati. Il primo, Alessandro Pesci, l'ho appunto, come dire, ci è piaciuto invitarlo ad Alphaville, al festival, perché è un direttore della fotografia giovane, gli altri sono tutti dai 70 in poi, ed è stato il direttore della fotografia, tanto per citare un film, di Abemus Papam di Nanni Moretti. Sì, sì, sì. Quindi abbiamo pensato sabato di realizzare una bella serata con lui, dove ci faremo all'inizio una chiacchierata appunto sul nuovo aspetto della direzione della fotografia, sulle difficoltà, sulle prerogative, se ci sono ancora, e su tutto il resto che ci può venire in mente, chiedendolo insomma a un giovane, cinquantenne, Alessandro, qui in Italia è giovane ormai, però in effetti nel cinema giovane direttore della fotografia è giusto che sia Alessandro praticamente, e lui ha scelto di far vedere subito dopo Il dolce e l'amaro di Andrea Porporati, altro film di impegno civile che ci fa piacere comunque riproporre all'Alphaville. Domenica invece Sergio Salvati, grande direttore della fotografia del cinema di genere, quindi come vedi Federico abbiamo scelto tre figure italiane che però sono diverse pur sì. Nello stesso settore appunto di direzione della fotografia. Sergio Salvati è stato il direttore della fotografia di Lucio Fulci, di tutti i film di Lucio Fulci, e il grande maestro appunto di genere che lanciò tantissimi personaggi, per dirne due, insomma, che anche dal punto di vista parodistico, Franco e Ciccio, ma che fece soprattutto una grandissima carriera dal punto proprio di vista del cinema di genere, thriller, psycho, noir, giallo soprattutto. E Sergio Salvati verrà, parlerà un po' con noi di come si fa a essere direttore della fotografia tra gli effetti speciali, e soprattutto ha portato appunto questo film, Sette note in nero. Tu l'hai visto, Federico? Sette note in nero, sì. Che è un film molto particolare, che è talmente piaciuto a Bollywood che lo hanno rifatto uguale con gli attori di Bollywood e si chiama 100 giorni, 100 years, però noi non ve lo facciamo vedere quello di Bollywood, noi vi facciamo vedere l'originale. Ricorda, manca solo... ci sono molte similitudini con i primi lavori di Dario Argento nelle assolutamente fette assolutamente. Io credo che infatti l'altro giorno quando appunto Sergio è venuto per portarci appunto il DVD per la videoproiezione, l'abbiamo riguardato sin dall'inizio e sinceramente sì, se poi consideri che appunto sono tutti periodi e sono tutti, scusami, lungometraggi questi di cui stiamo parlando di quel periodo, insomma, no? Cioè sì, stiamo parlando degli anni 70, dall'inizio degli anni 70, Sette Note in Neve del 77 e Profondo Rosso è del 75, quindi voglio dire 75, sì. Siamo lì, no? Sì, sì, sì. Ci sono tutta una serie di similitudini. Ti dico soltanto che qualche giorno fa appunto stavo vedendo, non so se tu ricordi, no Federico, tu non lo ricordi, Gamma, uno sceneggiato televisivo. No, quello no. Nel 1971, ma ci avevo tre anni, avevo appunto, non te lo ricordi, per questo ho detto non te lo vuoi ricordare, ma io me lo ricordo male, ma lo sto rivedendo appositamente, ma guarda che c'erano delle atmosfere argentiane proprio. Sì. Ma ma in quel periodo ovviamente tutto questo poi si riverbera, no? Sì. Gli stili, i modi, i tempi, le necessità, la situazione, tutto si riverbera, il cinema è una grande spugna poi alla fine. Sì. Volevo soltanto aggiungere che venerdì invece, venerdì 14, se vi piace sentirmi parlare ogni tanto, no, sto scherzando, davvero. Se vi piace sentirmi parlare ogni tanto, non potete perdere l'occasione, perché venerdì ci sarà un workshop che è appunto un breve laboratorio incontro di un'ora e mezza direttamente tratto dal mio corso di semantica del linguaggio Leggere il cinema, di cui propongo appunto gratuitamente, quindi con entrata libera alle 20, la lezione tra virgolette La fotografia nel cinema, a cui farà seguito l'ottimo film, bellissimo film, non vedo l'ora di rivederlo sullo schermo grande, espressionista americano, La scala a chiocciola di C. Odmack, che tu avrai visto sicuramente, Federico, e che a me mi ha sempre messo tanta paura. sì, l'ho visto. Era un periodo in cui frequentavo la biblioteca che stava agli ex Mercati Generali, e lì mi andavo a vedere la mattina, mi andavo a vedere tutti i classici. Che bello. Ma io guarda, andavo sempre al Palazzo delle Esposizioni quando frequentavo l'università, quando frequentavo appunto il Dipartimento dello Spettacolo, andavo al Palazzo delle Esposizioni e di mattina davano dalle 9 fino alle 15, mi pare, tutta una serie di film, tutti quelli che c'entravano in quella fascia là, ma di tutti i tipi. E io stavo lì come te tutte le mattine immersa in questa atmosfera e mangiavo infatti più tardi, ma mi faceva piacere. Tanti film l'ho visti lì, questa scala a chiocciola mi sembra di averlo visto una delle prime volte lì, e mi ricordo che questa, noi abbiamo messo ovviamente un film, abbiamo inserito in rassegna un film in cui la fotografia è enormemente importante per la resa della storia, e io mi ricordo che tutte queste ombre, le luci, ma che stiamo scherzando, cioè cose da pazzi, erano le ombre e le luci che facevano paura, che poi tra l'altro Mutatis Mutandis negli anni 60 sempre appunto per la televisione fecero quel bel Fagor, il mostro del Louvre, che tu non hai visto, che io non l'ho visto, no, però l'avrai sentito, sì. E che c'erano appunto queste cose, queste ombre e queste luci di tipo espressionista, in realtà erano le uniche cose che facevano realmente paura, a dimostrazione di quanto la luce e quindi la fotografia nel cinema sia essenziale, perché tu puoi avere una storia meravigliosa, puoi avere degli interpreti davvero in parte, puoi avere una scenografia da paura, ma se poi non c'è nessuno che ti usa un grand'angolo piuttosto che un obiettivo normale, se non c'è nessuno che ti guarda come deve essere la luce, se non c'è nessuno che ti dice da qui o da lì, secondo me poi alla fine non viene benissimo. Pensiamo per esempio, che ne so, a grandi film come Barry Lyndon, pensiamo a Murnau, pensiamo, cioè, ma sì, di che parliamo se non parliamo di luce? Certo. Ecco, e comunque vi potrete sentire in tutta questa rottura, insomma, di rapporto tra cinema e fotografia, direttamente venerdì per un'ora e mezza. Oh, così ci divertiamo un po' e vediamo pure qualche sequenza di quelle che non abbiamo messe. Aggiungo solo una cosa, Federico, che come avrei visto nel programma, in fondo al programma appunto si parla di proiezioni precedute ottenute da corsi dell'archeologia cinematografica. Sì. Vorrei ricordare che faremo vedere, penso proprio stasera, ma poi rivedere anche K di Lorenza Mazzetti. Lorenza Mazzetti è una delle più grandi fondatrici del free cinema britannico del 55-60, che è stata pure ospite da noi qualche giorno fa, 85enne pimpantissima, realizzò questo K, che è appunto la storia delle metamorfosi di Kafka, e la cosa che ci fa più piacere è farlo rivedere, è un mediometraggio di 20 minuti, perché davvero anche lì il cinema è fotografia, e la fotografia fa da padrone in tutto, insomma. Bene. E del resto, senza la luce e senza la retina, noi non avremmo uno spettatore. Esatto. Bene, Patrizia, allora, per i dettagli del programma, rimandiamo al sito internet del Cineclub Alphaville, e io ti abbraccio, spero di venirti a trovare nuovamente anche in quest'ambito, e se no ci sentiamo anche via etere per le prossime novità. D'accordo, ti ringrazio Federico, spero di vederti presto, di abbracciarti fisicamente per farti gli auguri di buon anno, e certo spero di sì, e poi insomma di sentirci quanto prima. Grazie ancora, buon pomeriggio a tutti. Ciao Patrizia. Ciao Federico, grazie, ciao. E siamo alla conclusione di Visionari per quanto riguarda questa settimana. L'appuntamento è giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni le trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info. Buon proseguimento.